Va bene, iniziamo. La presentazione di oggi pomeriggio, sapete, si inserisce in un programma articolato su tre giorni in ricordo di Primo Moroni, che in questo periodo era il 98, veniva a mancare. Abbiamo incominciato venerdì sera con la presentazione di un libro, The Artisan by Frank, una raccolta di materiali sulla black music. Nell'introduzione abbiamo motivato il rapporto che poteva darsi tra una figura come quella di Primo e un movimento musicale come quello che era oggetto del libro e del concerto che poi è seguito. La cifra di questo rapporto consisteva nell'apertura che Primo aveva sempre avuto nei confronti delle culture giovanili, delle espressioni di base, dei movimenti che incrociavano cultura, politica, tecnologia in maniera di volta in volta innovativa e perturbante. E, al di là che lui ne fosse diretto protagonista, ma sicuramente sempre ne era un attento e curioso osservatore. Questo gli permise di entrare in contatto con le allora recentissime, nuove per l'Italia, culture punk, questi giovani giovanissimi che nella Calusca trovavano un punto di incontro, di diffusione dei loro materiali, di dialogo con generazioni politiche e culturali precedenti e una serie di stimoli a sostanziare ulteriormente questa loro scelta di stile e questo loro modo di stare insieme e di aggregarsi. Ieri sera si è svolto un concerto benefit punk facente parte di un ciclo che si chiama Inguaiati con la legge, perché i proventi di questi concerti vanno a sostegno di iniziative di lotta e di compagni e compagne giusto appunto inguaiati con la legge, che sono detenuti, hanno spese processuali o di sussistenza in carcere da affrontare. E anche questa iniziativa sta assolutamente dentro lo spirito di Primo, la sua partecipazione a tutte le iniziative di autodifesa e di lotta contro la repressione. Basti ricordare la sua partecipazione al coordinamento dei comitati di lotta contro la repressione, che fu un'esperienza grossa con la quale si cercò di far fronte alla grande ondata repressiva dei fine anni 70, primi anni 80. Oggi, oltre al pranzo in memoria e al brindisi che seguirà questo incontro, si era pensato di presentare due libri anch'essi afferenti alla sua attività e ai suoi interessi. Stamattina ci sarebbe dovuta essere la presentazione di un libro sulla cultura operaista, l'ultimo lavoro di Mario Tronti per un atlante dell'esperienza operaia, e Sergio Bologna avrebbe dovuto parlare proprio del rapporto tra Primo e l'operaismo, una delle culture politiche che hanno attraversato la Calusca e le vicende di movimento dentro le quali Primo è stato non solo attivo, ma ha svolto quella funzione a lui peculiare di intreccio, confronto, contaminazione, al di là della sintesi, della possibilità di sintesi in tutta la contraddittorietà delle espressioni, però uno spazio di confronto, come dovrebbero sempre fare i compagni. La Calusca e la sua figura incarnavano questa appartenenza attraverso il transito, perché anche allora in Calusca si trovavano copresenti compagni di generazioni diverse, pezzi del vecchio partigianato, nuove esperienze della controcultura e dell'attivismo di base post 68, i nuovi movimenti della metà degli anni 70, 77, la circolazione dei materiali attraverso la puntura. Insomma, sapete anche voi bene come funzionava allora, o per esservi stati presenti o per averne sentito parlare o letto su quel po' di testi scritti con cui cerchiamo di riproporre queste modalità. Ecco, il libro che presentiamo oggi anch'esso sta dentro quella complessità di approcci, perché poi si esprimeranno meglio più precisamente Daniele, uno degli animatori della casa editrice Tabor, che è forse il frutto più maturo dell'esperienza di lotta valsusina, insieme alla rivista Nunatak, che poi è stata da un certo punto in avanti prodotta dalla stessa casa editrice Tabor, e Sandro Moiso, che abbiamo avuto ospite varie volte quando si è parlato di guerra, ma che prima fondamentalmente non lo conoscevamo, ma a un certo punto notammo su un numero di Carmilla una recensione in cui parlava molto bene di un nostro libro. Ma come ha fatto ad averlo questo libro? E poi perché ne parla così bene? Da lì è nata una curiosità che poi ha portato a una serie di incontri e discussioni molto importanti. In una delle ultime volte che forse l'ultima volta che ci si vide a Torino allo spazio Einaudi, si parlò proprio di queste cose, della necessità di affrontare i movimenti radicali che hanno segnato l'inizio dell'età moderna in Europa, la cui sconfitta ha permesso lo sviluppo della società del capitale, con tutto quello che è legato a quei movimenti, a quelle forme di vita, a quelle vicende. Cioè un'altra idea della storia, del corso storico, nell'urgenza del tempo, questa accensione delle possibilità fino a bruciare per questa urgenza, e in questa ridislocazione del tempo, la possibilità di collegarsi con gli antichi altrettanto sconfitti, torturati, uccisi, e con i nipoti del futuro, al di là dei mari, quindi insomma quella serie di esperienze che forzano, rompono l'idea unilineare della necessità storica come programma iscritto nel metabolismo del mercato. La possibilità di percorrere altre vie, di utilizzare i testi della tradizione forzandone i significati o restituendo ad essi i significati originari. E condividere i frutti dell'ingegno, perché poi sono gli anni di una grande innovazione tecnologica e produttiva, ma condividerli, giusto appunto, non sfruttarli per fare ancora più soldi. E quindi dare vita ad esperienze che sono state per lungo tempo troppo difficili e promettenti per essere affrontate adeguatamente dagli studiosi delle università e dell'Accademia. Per tanti anni, forse l'unico libro importante dedicato a questi movimenti fu quello di Norman Cohn, un libro, ripeto, importante, ma il cui scopo principale era parlare male di queste esperienze e metterne in luce i prodromi del totalitarismo, gli elementi più deteriori, in realtà forzando molto al di là del lecito, quello che era sicuramente una segnatura che questi movimenti avevano e ricevevano dalle culture religiose del tempo, ma che di sicuro non si esaurivano in questi segni del tempo. Piuttosto questa eccedenza di tensioni è quello che da un altro punto di vista, da un'altra esperienza storica, si è successivamente riusciti a individuare e valorizzare. Non a caso, nella presentazione ultima fatta con Dani a partire dal libro di Oscar Gasseiras, si notava come molte di queste esperienze di primo radicalismo furono riscoperte, studiate, valorizzate dentro la temperie, insomma il calore del 68. È nel 68 che vengono riscoperti i luddisti, al di là della figurina classica di primi distruttori di macchine, i diggers della rivoluzione inglese, i contadini tedeschi in rivolta del 500. E da lì è rinata un'attenzione per quelli che erano i frutti dell'espressionismo dei primi anni 20, perché il libro di Bloch su Munzer è un libro profondamente espressionista, ma non a caso è proprio nell'espressionismo tedesco che vengono recuperati sia il segno grafico, che se andate a vedere molte incisioni espressioniste e le confrontate con quelle del 500 tedesco, trovate delle similitudini fortissime, ma non solo nello stile, proprio nell'aspirazione a riconnettersi con un'altra Germania, un'altra possibilità per quelle martoriate terre, come si dice alla fine di questo libro. Ecco, primo è stato sempre dentro questa complessità di presenza attiva e di sforzo per fondare i significati profondi e ulteriori di questa presenza al di là di quello che offriva il mercato politico attuale. Ecco, volevo chiudere questa premessa con una nota dolente, di tipo informativo, assolutamente a nostro avviso necessario. E la nota è relativa ai 91 fermi effettuati a Roma ai danni dei compagni che si apprestavano a commemorare Sandrone e Sara. Ecco, al di là dell'elemento tecnico-giuridico, se questi fermi si rifacciano ai dispositivi previsti dal decreto sicurezza o abbiano altre origini, resta la gravità dell'aver impedito neanche una manifestazione politica, ma una commemorazione funebre. Non può non venire in mente la polemica sulla sepoltura dei compagni della RAF morti a Stamaim, o l'ancora più odiosa polemica sulla sepoltura di Mario Galesi dopo il conflitto fuoco in cui morì. Ecco, questo è un esempio di cosa significhi il diritto penale del nemico, che diventa l'antropologia del nemico assoluto, al quale va negata quello che spetta a tutti, l'affetto degli amici, la memoria di chi l'ha conosciuto, una sepoltura degna e che ne restituisca il significato della vita. Questo costoglioso provvedimento non ha impedito che però quel giorno a Roma sfilasse uno striscione che recitava «Un giorno dobbiamo morire, ma tutti gli altri no». Allora, grazie Roby della premessa, grazie a tutti, a tutte di averci invitato. Io allora partirei, mi ero preparato una scaletta, ma mi ha suggerito la premessa di Roby altre cose. Effettivamente forse ha senso anche parlare del un po' in generale delle edizioni Tabor, come nasce questo progetto. Che, come appunto accennava Roby prima, nasce in Val di Susa e nasce un po' da un'esigenza di ricostruire un immaginario, cioè partecipando alle lotte contro l'alta velocità, quello di cui abbiamo sentito l'esigenza è di smarcarci anche da un immaginario molto urbano-centrico, cioè c'erano... ci siamo accorti un po' che la questione metropolitana, un po' chiaramente un derivato del movimento operaio del Novecento, della supposta centralità della classe operaia industriale, ha marcato anche proprio tutto un immaginario anche di lotte che avvenivano che avvengono in altri territori. Quindi l'idea era, partecipando ovviamente ai movimenti di lotta in un territorio montano come quello della Val Susa, di cercare anche di ricostruire un immaginario, una storia che possa dare forza alle lotte attuali, ricostruendo quelli che sono i propri pregressi storici di resistenza che comunque ogni territorio ha, in particolare i territori montani, i contadini, per venire un po' a quello di cui parliamo oggi, che sono sempre stati tacciati da tutto un pensiero comunque positivista, progressista, che ha influenzato anche il marxismo, ma anche l'anarchismo, un po' tutte le correnti novecentesche, per cui i contadini, il contadiname è sempre stato considerato come una classe di per sé reazionaria, controrivoluzionaria in qualche modo, di barbari. Questo è proprio una sorta di disprezzo quasi antropologico, no? Che nella modernità nasce nei confronti delle popolazioni legate alla terra, agli animali, quindi sporche, qualcosa che andava superato. L'idea del progresso moderno si scontra proprio contro la figura del contadino, quindi cercare di ricostruire, cioè l'idea stessa di libertà moderna nasce da una falsa idea di libertà fondata sulla liberazione dalla natura, no? Di questa contrapposizione con coloro che sono legati alla terra, alla produzione materiale. Quindi, e questo fa rima ovviamente con un'idea di progresso tecnologico, per cui la libertà sarebbe insomma garantita in qualche modo dalla tecnologia, dalla possibilità di liberarsi dalla cosiddetta schiavitù della natura. Quindi insomma un po' tutte le pubblicazioni di Tabor nascono da appunto l'idea ricostruire una storia, un immaginario che non ha il suo centro nella metropoli, nell'industria, nella classe proletaria industriale, via dicendo. Quindi ricostruendo un po' le storie di resistenza degli altri territori, che sono ricche appunto di episodi di lotta, di solidarietà, di alternative e via dicendo. All'interno delle varie pubblicazioni di Tabor, negli ultimi 2 anni abbiamo fatto questa collana che si chiama Bundschuh. Bundschuh era la lega dei contadini che dalla fine del 400, il 1400, l'inizio del 1500 ha preannunciato, preparato in qualche modo la cosiddetta grande guerra dei contadini tedesca che ha avuto poi il suo apice nel 1525. Il Bundschuh era la lega della scarpa legacci, possiamo chiamare, era lo scarpone tipico che indossavano i contadini in contrapposizione con gli stivali dei signori, quindi era un simbolo un po' di appartenenza, di classe, possiamo dire. E appunto un po' cogliendo l'occasione, il pretesto diciamo del cinquecentenario della guerra dei contadini in Germania, abbiamo fatto tutta una serie di libri che hanno tentato di ricostruire un po' il contesto di queste vicende. L'apice appunto è il 25 con la guerra dei contadini in Germania, l'ultima battaglia finale a Frankenhausen con Thomas Münzer, però nelle altre pubblicazioni abbiamo cercato un po' di ricostruire questo un po' il contesto di questi eventi. Siamo alla fine del feudalesimo, appunto un periodo decisivo, diciamo. Il ragionamento che un po' ci siamo fatti è che la modernità, per come la conosciamo oggi, quindi il capitalismo, chiaramente erano processi secolari che erano iniziati già da tempo, però se vogliamo individuare un punto di svolta è proprio l'inizio del Cinquecento, la nascita dello Stato nazionale, del capitalismo, il colonialismo. Non a caso appunto questo processo ha diciamo il suo slancio nella cosiddetta scoperta dell'America, l'accumulazione monetaria che questo con la scoperta delle miniere, l'argento, la possibilità di una circolazione monetaria, che dà vita a tutta una serie di dinamiche che accompagnano uno scontro che è una vera e propria guerra civile che va avanti per secoli. Roby prima citava la guerra civile inglese, la guerra dei contadini un secolo prima con i taboriti nel 400 nella Boemia, andrà avanti per secoli. L'affermazione del capitalismo, questo è un po' quello che abbiamo voluto ricostruire, non è un, come normalmente ci viene raccontato, una storia di progresso lineare verso una società sempre migliore. È stata una vera e propria guerra civile sotterranea, più o meno sotterranea, contro i poveri, contro le loro autonomie, le loro proprietà collettive, tutta una serie di usi consuetudinari, che si è affermata con la forza delle armi, delle persecuzioni, i roghi delle streghe, dei dissidenti, degli eretici. La guerra dei contadini si inserisce proprio in questo momento qua. Noi nelle varie altre pubblicazioni di Bundschuh abbiamo appunto detto qualcosa sulla guerra, cioè sulla caccia alle streghe, sulla diciamo la scoperta dell'America, o meglio con un libretto, ripubblicando un testo di Parinetto che fa un po' un parallelo tra quella che è stata la streghizzazione degli indios nel Nuovo Mondo e la guerra interna in Europa contro le popolazioni marginali, allo stesso modo streghizzate. Ricostruisce tutto un parallelo tra queste forme di persecuzione. Un altro testo parla dei diggers, delle lotte nell'Inghilterra, soprattutto nel 600, altri, uno sui taboriti, vabbè, adesso non mi dilungo, parliamo più della questione dei contadini. Appunto, ricostruendo il contesto, però è interessante come tutte queste questioni siano estremamente collegate. La disponibilità monetaria, la nascita, l'affermazione del capitalismo impone alle comunità contadine che erano abituate da secoli in qualche modo a delle forme di autogoverno, cioè dal crollo dell'impero romano in avanti, quindi al venir meno di un potere centrale che aveva la forza di amministrare i territori, ovviamente in forme diverse in tutte le varie i vari territori, però le comunità locali hanno in qualche modo dovuto trovare delle forme di autogoverno, di autogestione, che sono andate avanti per secoli. L'affermazione all'inizio del Cinquecento degli stati territoriali, dei principi, sia poteri laici sia vescovili, ha in qualche modo dato una stretta a queste forme comunitarie, e la guerra dei contadini si può leggere soprattutto come uno scontro appunto tra le comunità locali e il nascente Stato nazionale, che ci metterà dei secoli poi arrivare al monopolio del potere, della violenza, del sapere, via dicendo, però questo è il fulcro dello scontro che c'è di fondo. La stessa caccia alle streghe è uno scontro per il monopolio del sapere. Le donne erano chiaramente il fulcro, il centro, il cuore dell'autonomia delle comunità locali, erano quelle che custodivano i saperi, l'uso delle erbe, una sorta di appunto i saperi che garantivano la riproduzione, la vita, la morte, la cura. I poteri nascenti, statali, capitalisti, burocratici, accademici, per affermarsi avevano bisogno di affermare il monopolio di questi saperi, di sottrarli alle comunità locali, e la caccia alle streghe è sostanzialmente questo. Allo stesso modo c'è una lotta per il monopolio delle risorse. Appunto, come dicevo, c'era un'abitudine ormai secolare a un utilizzo collettivo comunitario delle risorse, i boschi, i pascoli, le acque, le foreste, la legna e tutto quanto, che pian piano vengono erosi e vengono monopolizzati dai vari poteri centrali, che ancora in forma frammentari all'inizio della fine del 400, inizio del 500, iniziano ad affermarsi, a strutturarsi sempre di più. La stessa cosa sul monopolio della violenza. Sandro ne parlerà dopo, ne ha parlato anche in un più recente articolo che ha scritto su Carmilla. La questione della guerra non è affatto secondaria, cioè le società medievali erano società armate, ogni villaggio, parrocchia, borgo aveva le proprie milizie, che erano di fatto milizie di autodifesa per difendersi da eventuali invasioni, da briganti, da eventuali altri attacchi qualunque tipo, e per la gestione in generale della sicurezza interna. Ovviamente queste strutture a cui partecipavano tutti gli uomini principalmente del villaggio, nei momenti di conflittualità, di rivolte, di insurrezioni, rappresentavano la forza militare in grado di contrapporsi ai poteri centrali in formazione. L'affermazione degli stati territoriali, la dinamica è proprio quello di espropriare queste forme di potere locale, di contropotere, possiamo dire, e di creare dei corpi di polizia sempre più impersonali, sempre più estranei, dalle una sorta di autonomizzazione del potere, anche della sicurezza, quindi di accentrarli in forme sempre più burocratiche. C'è tutto un processo, appunto, in tempi diversi, in modalità diverse a seconda dei territori, però che arriva a quello che conosciamo oggi, alla costruzione dello Stato-Nazione, con appunto tutto quello che ne consegue e che ne sappiamo. In questo c'è anche un'espropriazione del sapere, in cui rientra anche, oltre alle conoscenze che dicevamo prima, patrimonio soprattutto delle donne e via dicendo, anche la questione della religione. La questione, non a caso la guerra dei contadini si intreccia in maniera inestricabile con la riforma protestante. Siamo all'inizio del Cinquecento, sappiamo Martin Lutero, le tesi, 1517, avviene questa rottura, questo scisma nella cristianità, e la guerra dei contadini si intreccia proprio con questo fenomeno di rifiuto del monopolio del sapere anche teologico, del cristianesimo, che crea insomma una sorta di base su cui i contadini appoggeranno anche le loro rivendicazioni. Si può in qualche modo dire che esistono due riforme: la riforma luterana, che diventerà ben presto la riforma dei principi borghese, della borghesia nascente, su cui appunto si appoggeranno i principi territoriali, i poteri laici. Però esiste tutta un'altra storia, di cui Munzer è uno dei principali rappresentanti, che è la riforma popolare, la riforma radicale, la riforma contadina, è stata chiamata in vari modi, che nasce un po' dalla stessa tensione di riappropriazione anche del Vangelo, della Bibbia, di quello che era allora era il linguaggio comune. A noi oggi possono alcuni slogan loro, un po' questo discorso religioso non ci suona molto, però bisogna tenere in considerazione, per capire veramente le rivendicazioni degli insorti, cosa è stato tutto quel periodo lì, bisogna immedesimarsi in quello che era il clima dell'epoca. All'epoca, cioè oggi per noi essere cattolico, protestante o buddista o ateo è un po' come essere della Juve o del Toro, cioè non è che cambia molto nelle nostre vite. All'epoca la religione era qualcosa di molto più profondo, era veramente il linguaggio comune in cui tutti gli aspetti della vita prendevano forma, avevano la loro espressione. La parrocchia era il centro della vita di ogni villaggio, quindi anche tutte le tensioni, anche le tensioni di lotta, di rottura, si esprimevano in quel linguaggio lì. E la riforma, appunto, non a caso è uno degli elementi centrali. Immaginiamoci appunto già solo il fatto di rivendicare la predicazione del Vangelo nelle lingue volgari. Appunto la gente andava nei villaggi in parrocchia a sentire uno che parlava in latino, una lingua che nessuno conosceva, ripetevano delle forme, delle formule. Munzer dice come delle scimmie, cioè i contadini erano ridotti a delle scimmie a ripetere delle parole vuote che non conoscevano. Il fatto di riappropriarsi del Vangelo, quindi di capire che cosa stavano dicendo, è un processo che ha dato vita alla possibilità di rileggere, di leggere la Bibbia, di capirla e di utilizzarla proprio come linguaggio per le proprie rivendicazioni. Questo è anche ciò che ha dato il là in qualche modo alla guerra dei contadini, che ha avuto la possibilità di lanciare delle rivendicazioni universali. Cioè, se fino ad allora le varie lotte contadine si erano espresse soprattutto come lotte locali, anche in tutto il periodo del Bundschuh, cioè questa cospirazione che c'è stata tra la fine del 400 e i primi 20 anni del 500, che era una vera e propria cospirazione, costruzione di momenti insurrezionali, di lotte spesso represse, però avevano sempre avuto un carattere locale, era sempre stato difficile in qualche modo coordinarsi. La riforma, in particolare la riforma radicale, riesce a dare delle parole d'ordine universale, cioè tutti i vari contadini che fino ad allora avevano protestato, avevano avuto delle lamentele, rivendicazioni, degli scontri con i loro signori locali, attraverso la predicazione di Munzer e degli altri predicatori radicali costruiscono un programma comune, hanno finalmente delle parole d'ordine comuni, leggendo la Bibbia, semplicemente dicendo: nella Bibbia non c'è scritto da nessuna parte che devono esserci i signori e i servi, c'è scritto che gli uomini sono nati tutti uguali, e quindi riescono a fondare le loro rivendicazioni su il testo sacro, che era quello che basava tutto il sapere dell'epoca. Quindi è veramente un processo rivoluzionario, e le parole d'ordine rispecchiano questa dinamica. Una degli slogan scritti sulle bandiere del Bundschuh è nient'altro che la giustizia di Dio. A noi oggi questa frase può suonare come una cosa un po' fondamentalista cristiana, in realtà è un messaggio dirompente, cioè è una forma di delegittimazione di qualsiasi autorità terrena, e il fatto che le comunità non devono rendere conto a nessun altro se non alla parola di Dio, di cui loro si iniziano a sentirsi interpreti e depositari, quindi con un'idea ugualitaria che si rifà al cristianesimo primitivo, all'idea apostolica, no, della comunità degli apostoli che avevano tutto in comune, in cui non c'era proprietà privata e via dicendo. La gestione delle decime, ad esempio, c'è tutto un discorso su quello, sul fatto neanche che le decime dovessero essere abolite, cioè una delle rivendicazioni appunto era di smettere di pagare le tasse ai principi, però con un discorso che anche lì ci fa vedere la natura comunitaria della riforma, loro dicono va bene pagare le decime al nostro parroco, che tra l'altro, poi ci torneremo, dovrà essere eletto da noi, dalla comunità, per mantenerlo, per predicare e via dicendo, però siamo noi a decidere l'utilizzo quale sarà l'utilizzo di queste decime, cioè appunto per pagare il parroco e il resto per mantenere i poveri, per gli usi comunitari e via dicendo. L'elezione diretta appunto dei pastori, che anche qua può sembrarci una cosa un po' così, non troppo dirimente, però appunto immaginiamoci che la parrocchia era il centro della comunità, era il posto dove avvenivano tutti i rituali, tutti i riti di passaggio, i battesimi, le nascite, matrimoni, funerali per le morti, cioè tutti i riti della comunità avevano al centro il pastore della parrocchia. Quindi il fatto che la comunità rivendicasse che erano loro a dover decidere chi era questa figura e a poterlo anche decidere della sua elezione o il fatto di poterlo dimettere, no, come si dice, di destituire quando volevano, ci dà l'idea appunto della radicalità di questo pensiero. Così come anche immaginiamoci la questione una delle rivendicazioni del Bundschuh era la istituzione dell'anno giubilare, che era una vecchia tradizione di origine ebraica, cioè un anno in cui, che avveniva ogni tot a seconda dei periodi, in cui venivano abbuonati tutti i debiti, tutte le proprietà venivano restituite, tutti gli schiavi venivano liberati. Cioè immaginiamoci la radicalità di una cosa del genere. Noi oggi appunto siamo abituati a pensare come questi, come movimenti arcaici, pensiamo ai movimenti contadini come insurrezioni così senza programma né prospettive, abbastanza così di barbari, ma in realtà avevano un programma estremamente radicale di vero e proprio comunismo, di redistribuzione dei beni. Immaginiamo cosa vorrebbe dire oggi, ogni 5 anni o anche ogni 10 anni, ogni 20 anni, che tutti i debiti si riazzerano, tutti i prigionieri vengono liberati, tutti i debiti vengono restituiti, le proprietà ridistribuite, cioè qualcosa di una radicalità che oggi insomma nessun movimento mi sembra che si sogni di proporre come un programma concreto, effettivo e organizzato come tentarono di fare loro. Appunto Munzer, dicevo prima, scusate un attimo, è un po' la figura più nota, per quanto sia stata abbastanza dimenticata o censurata nel corso del di secoli in realtà, perché poi il primo che ne parlerà Zimmermann nella Germania, siamo nell'Ottocento, poi Engels, poi Bloch, diceva già Robi prima, all'inizio negli anni 20-30 del Novecento, però per secoli, per più di 3 secoli è stato praticamente dimenticato. Munzer era un pastore, cioè era uno studente, figlio di una famiglia né troppo povera né troppo ricca, che fa una carriera appunto come studente, studia teologia, decide poi di non andare all'università ma di farsi parroco, appunto proprio come volontà di stare vicino al popolo, diciamo così banalmente, non di andare nell'accademia, nell'università, ma di predicare nelle parrocchie di campagna, quindi già con una tensione di questo tipo. Inizialmente seguirà le tesi di Lutero, che come dicevamo creano una frattura molto forte nella cristianità, in particolare nel mondo germanico, ma non solo, e poi inizierà tutta una serie di, come spesso capitava agli studenti all'epoca, di peregrinaggi. Verrà cacciato da alcune, adesso la faccio breve la storia, se no ho già parlato abbastanza, viene cacciato inizialmente da alcune parrocchie in cui si creano un po' di problemi con le autorità locali, gira diversi paesi sia della Germania, poi arriverà in Boemia. Non a caso, questo è un passaggio importante, In Boemia ci andrà proprio perché un secolo prima, negli anni 20 del 400, ci fu l'insurrezione dei Taboriti, che fu praticamente una sorta di un po' tutte le rivendicazioni che ritorneranno nel 500 con la riforma più nota, la riforma luterana. In realtà erano già stati anticipati un secolo prima dai Taboriti, che costruirono un vero e proprio movimento insurrezionale. Si ritirarono nelle montagne, dichiararono che tutte le città dovevano essere distrutte, costruirono invece delle roccaforti in cui misero tutto in comune. Era una sorta di comunismo evangelico, ma anche militare, nel senso che si organizzarono militarmente. Vengono mandate contro di loro ben 5 crociate, che vennero tutte sconfitte. I Taboriti riuscirono a creare delle alleanze non solo contadine, ma con la popolazione proletaria, protoproletaria delle città, costruendo delle fratellanze di combattimento, e riuscirono a liberare praticamente l'intera Boemia per decenni. Poi vennero sconfitte più che altro per fratture interne, ma dicevo, il percorso, il viaggio di Thomas Muntzer passa anche da quei territori lì, quindi in qualche modo raccoglie l'eredità dei movimenti precedenti, e predica a Praga, in altre parrocchie della Boemia. Poi è costretto anche lì a ritornare, un po' appunto un pellegrinaggio, un po' un esule, diciamo. Viene cacciato via dai vari posti, perché in ogni posto che va provoca dei sommovimenti. In un caso, ad esempio, a Dahlstedt, se non sbaglio, dopo la sua predicazione, in cui lui dice che non bisogna più pagare le decime ai conventi, i fedeli che ascoltavano la sua predicazione, quando escono, vanno a incendiare il convento delle suore a cui dovevano pagare le decime. Ovviamente Muntzer non si dispiace molto di questa cosa, dice: "No, avete fatto molto bene", e quindi questa cosa non viene molto accettata dalle autorità locali, che lo cacciano nuovamente. Insomma, è tutto un percorso di peregrinaggio in cui il suo pensiero diventa davvero la base di questo programma comune, che pian piano va a formarsi nelle schiere contadine. Come dicevo prima, c'erano già diverse rivendicazioni locali. I più famosi poi diventano gli articoli dei 12 contadini, che appunto rispecchiano questa in qualche modo confluenza delle varie rivendicazioni locali in un programma rivoluzionario comune, in cui ci sono un po' i vari punti, alcuni ho già accennati prima: smettere di pagare le decime, la fine della servitù della gleba, le elezioni dei propri parroci, la predicazione in volgare, soprattutto l'espropriazione dei conventi, dei signori ecclesiastici e laici, la messa in comune delle terre e via dicendo. Quindi questo è anche importante notare come Muntzer non è che il predicatore che arriva dall'alto della sua cattedra e in qualche modo fa sollevare i contadini. In realtà è interessante leggere i testi, nell'evoluzione del pensiero di Muntzer, leggere i suoi testi. I primi sono molto moderati, e si vede proprio è lui che cambia pian piano, frequentando le parrocchie dei poveri, dei minatori, dei contadini. Si incontra con quelle che sono le loro istanze, le loro rivendicazioni, e pian piano anche lui radicalizza il suo pensiero. Quindi non è l'avanguardia che arriva a insegnare ai poveri che cosa devono fare, ma il contrario. È proprio, sono in qualche modo i poveri che si appropriano del suo messaggio, e in questo processo radicalizzano anche il suo pensiero, che è fondato, vabbè, qui sarebbe anche un altro discorso un po' più lungo, sulla mistica medievale da un lato, sull'apocalittica che attraversa un po' tutto il pensiero cristiano dall'inizio, anzi già dal pensiero giudaico in avanti. Lui fa proprie queste varie correnti, le rimescola, gli dà un senso più pratico. E soprattutto Muntzer, adesso lasciamo da parte questo aspetto più teologico, è un grandissimo organizzatore. Questo è quello che anche Engels nel suo testo, un po' il primo studio più approfondito sulla guerra dei contadini e su Thomas Muntzer, riconosce a Engels, riconosce a Muntzer proprio questa sua caratteristica di, diciamo, di primo rivoluzionario di professione, come potremmo dire. Non a caso Pianzola, già questo me lo sono dimenticato, non l'ho detto prima, l'autore di questo libro che abbiamo tradotto e pubblicato è Maurice Pianzola, che scrive nella Svizzera degli anni 50 questo testo. Non a caso lo stesso Pianzola, mi sembra subito prima di scrivere questo libro su... prima e dopo ha scritto un libro su Lenin, insomma si vede un po' il parallelo che lui fa su questo. Cioè Munzer veramente organizza, ha la capacità di mettere insieme sia dal punto di vista teologico, teorico diremmo oggi, i movimenti contadini, ma anche dal punto di vista pratico. Riesce veramente a creare delle reti. Ricordiamo che appunto era un periodo di anche forti innovazioni tecnologiche, il periodo della stampa a piombi, cioè a caratteri mobili, in cui nascono le prime tipografie, c'è la possibilità, ci sono diversi tipografi, stampatori, semplici garzoni di bottega che lavorano in queste prime stamperie, che nei ritagli dei libri, negli scarti, essendo simpatizzanti del movimento dei contadini o dei riformati, utilizzano questa forma di questa nuova tecnologia per diffondere il messaggio. I primi volantini della storia nascono lì, proprio dai ritagli, e quindi c'è tutta questa rete di contadini, ma di mendicanti, di predicatori, di insomma varia gente che girava per le campagne, che si fa portatrice di questi messaggi, che predicano nelle piazze, ma non solo, organizzano milizie armate per difendere i vari esperimenti collettivisti, comunitari, che i contadini riescono a imporre qua e là, talvolta anche con la complicità, con l'alleanza dei consigli cittadini. Appunto c'erano i primi consigli cittadini di una piccola borghesia, talvolta sono simpatizzanti con i contadini, poi pian piano nel corso della radicalizzazione dello scontro sempre di più si schiereranno con i principi. Però c'è tutto questo questa dinamica rivoluzionaria in cui c'è una vera e propria cospirazione, una vera e propria creazione di fratellanze anche armate, di propaganda, c'è proprio un lavoro rivoluzionario di questo tipo, di cui Munzer è un po' un esempio. Tutto questo processo arriverà, che si sviluppa in diverse parti della Germania, ma non solo, sui confini con la Svizzera, in Franconia, in Alsazia, sui confini con la Francia, in Tirolo, quindi zone attualmente italiane, nel centro e nel nord della Francia, Turingia e via dicendo. Arriverà appunto al suo culmine a Frankenhausen, la battaglia del metà maggio del 1525, in cui dopo varie sconfitte i contadini si radunano con Munzer in mezzo a loro su quello che poi verrà chiamato il Monte della Battaglia. 8.000 contadini affronteranno l'esercito dei principi, ci sarà un massacro totale, i principi offriranno una scappatoia, diciamo, ai contadini, dicendo: se ci consegnate il vostro profeta vi lasceremo andare, vi daremo l'amnistia, saremo clementi con voi. I contadini si rifiutano, avviene un massacro totale, insomma su 8.000 circa 5.000 contadini verranno trucidati, molti altri catturati, torturati, decapitati, come lo stesso Munzer accadrà poco dopo. C'è ancora un episodio, possiamo dire, un seguito della guerra dei contadini, che appunto nella Germania, nell'attuale Germania, finirà nel 1525. Nella zona del Tirolo continuerà ancora almeno per un anno. Nel 1526 ci sarà ancora gli strascichi della guerra condotta dai contadini tirolesi, minatori tirolesi guidati da Michael Geismar, che nell'attuale zona del Tirolo, che attualmente è Italia, sul Tirolo, cosiddetto Alto Adige, continueranno questa guerra con, è molto interessante, anche lì Engels ne parla, con un livello di consapevolezza, di capacità militare, di capacità politica, quindi con la costruzione di alleanze con i consigli della piccola borghesia cittadina, con i minatori, e anche con una capacità militare estremamente, insomma, importante, anche migliore di quella dei contadini tedeschi, e anche con un programma politico molto chiaro. Per ritornare a quello che dicevamo prima, Geismar stenderà l'ordinamento regionale del Tirolo, che è veramente di una radicalità incredibile, anche di una lucidità, cioè c'è proprio un programma politico per come gestire le terre del Tirolo dopo la vittoria, in cui viene dichiarato il programma di espropriare tutti proprietari terrieri, i proprietari delle miniere, i vescovi, per distribuire i beni al popolo. C'è un punto molto importante proprio sulle questioni che dicevamo, in cui dice tutte le città, tutte le mura delle città, tutte le fortificazioni devono essere abbattute, e nel futuro non dovranno esserci più città ma soltanto villaggi, affinché non esistano più diseguaglianze tra gli uomini. Cioè c'è proprio una consapevolezza della divisione tra città e campagna, della divisione del lavoro come il vero problema, quindi con una lucidità anche di vedute programmatiche che è incredibile per il mondo che poi questo processo ci ha consegnato. E questo ci dà l'idea di come la nascita del capitalismo, al contrario di tante analisi un po' deterministe che si riallacciano a Marx e a un certo tipo di marxismo, vedevano come l'affermazione del modo di produzione capitalista come un processo inevitabile anche per la liberazione del proletariato. In realtà vediamo come i contadini erano il 90%, cioè la popolazione rurale contadina rappresentava il 90% della popolazione in quel periodo, quindi dire contadini è un po' come dire il proletariato, la forza lavoro in generale. Questo ci dice come loro avessero una lucidità di analisi, un programma, un'organizzazione anche di lotta, la capacità di organizzarsi, e che quindi non era affatto scontato, non era affatto necessario che bisognasse passare a una fase capitalista. Cioè il declino del feudalesimo, la nascita della modernità capitalista non era affatto qualcosa di inevitabile. I proletari, i contadini di quel periodo hanno provato a fare qualcos'altro perché erano ben consapevoli di quello che stava succedendo, di quello che gli stava venendo espropriato e di che cosa avrebbe potuto essere il futuro. E quindi insomma ricostruire questa storia non è soltanto così una curiosità per vedere cosa hanno fatto quelli che hanno lottato in passato, ma ci fa vedere insomma che la storia non è affatto scritta su chissà quale libro sacro, ma è sempre un processo delle lotte che ci sono state e che ci sono tuttora. Daniele ha detto praticamente tutto quello che c'era da dire, no? Sull'esperienza della guerra di contadini di Munster. Io mi permetto di aggiungere alcune osservazioni che avevo già fatto recensendo il libro e alcune altre che mi sono venute in mente nel corso di questa interessante discussione. Sulla bandiera dei contadini a Frankenhauser, l'ultima battaglia, quella della metà maggio 1525, era scritto «Omnia sunt communia», tutti i beni devono essere in comune, tutti i mezzi di produzione devono appartenere a tutti e non soltanto essere nelle mani dei ricchi. E lì riassumeva brevemente tutti i punti che Daniele ci ha detto. Per quanto ci riguarda, a me sembra che sia molto interessante dire che nel momento in cui nasce il capitalismo, perché effettivamente il XVI secolo è il secolo in cui nasce il capitalismo, li ha elencati tutti Daniele, mi permetto di aggiungerne uno, è il XVI secolo, il secolo in cui gli storici dell'ambiente pongono il cosiddetto golden nail, il chiodo d'oro, quello che dimostra che lì è cominciata un'altra epoca di rapporto tra uomo e ambiente, in cui l'uomo comincia a dominare virtualmente sull'ambiente, no? Lo fanno studiando i danni provocati dagli incendi delle foreste sia nel sud che nel nord America che i colonizzatori provocano, lo fanno vedendo come da lì comincia una serie di trasformazioni agricole e poi mercantili, commerciali e in seguito industriali che sono destinate poi a diventare quello che oggi erroneamente si continua a dire antropocene, in realtà più giustamente dovremmo chiamare capitalocene, come alcuni storici dicono, perché l'antropocene dura da quando l'uomo è sulla faccia della terra e si rapporta in qualche modo con l'ambiente, no? Già i nostri antenati talvolta bruciavano dei tratti di foresta per avere terre più fertili da coltivare dopo, ma qui siamo passati chiaramente progressivamente ad un'altra fase di distruzione che ci riguarda direttamente. Quindi in questo XVI secolo, insieme al capitalismo, nasce la sua negazione, cioè il comunismo. Se noi ragioniamo secondo le teorie che riguardano la storia, di solito ci troviamo di fronte a tre possibilità, no? Una, quella già fallita, che era anche l'ultima, dello storico americano di origine giapponese Francis Fukuyama, che nel 1989 ha detto la storia è finita, il capitalismo ha vinto, il socialismo è morto nel 1989 con la caduta dell'Unione Sovietica, no? E quella, già lui, a partire dalla guerra in Ucraina, ha detto no, forse mi ero sbagliato, ha scritto sul Financial Times. Poi abbiamo le concezioni della storia come eterno ritorno, come ripetizione, e poi infine abbiamo quelle del progresso, del lento continuo progresso. Ecco, io vi inviterei a lasciarle perdere tutte e tre, perché potrebbe esserci, no, un aggancio con l'eterno ritorno. Per quanto riguarda la guerra dei contadini, che si dice vabbè, adesso vogliamo di nuovo tutti, e lo volevano già allora, oppure col progresso, vedendo come per esempio per Engels stesso e per tanti marxisti sia la guerra dei contadini che poi le lotte dei luddisti, tutte cose che le ricerche storiche più innovative recenti tendono un po' a negare, fossero soltanto delle anticipazioni del futuro movimento operaio. No, quei movimenti erano già manifestazioni aperte di rifiuto totale del capitalismo nelle sue forme in cui si esprimeva all'epoca. Tanto è vero che lo stesso Marx e Engels, gli stessi Marx e Engels, nel 1872, in un'introduzione ad una nuova edizione del manifesto, dicevano: guardate, il manifesto del 1848 può essere oggi modificato perché alcuni programmi di allora sono superati, ma non possono essere superati i principi. Ecco, noi possiamo dire che abbiamo a che fare con una negazione del capitalismo che si basa su alcuni principi inderogabili che non si possono cambiare. Possiamo cambiare i programmi dei contadini probabilmente erano diversi anche da quelli di oggi, anche se noi oggi, nella difesa dell'ambiente, nella rivendicazione dell'appropriazione dei mezzi di produzione, dobbiamo mettere per forza l'utilizzo, il differente utilizzo dell'ambiente, o, se ne discuteva prima a tavola, un differente utilizzo delle risorse energetiche, no? Perché noi abbiamo a che fare con una forma di produzione che è la più energivora della storia. Per capire questo, e prima vi dicevo, guardate, noi dobbiamo ragionare in un altro modo. Dobbiamo ragionare per lunghe epoche storiche e dobbiamo ragionare non per individui e forse nemmeno per società, dobbiamo ragionare per specie. Noi dobbiamo fare la storia della nostra specie. La storia della nostra specie, se ci intendiamo come sapiens, sono gli ultimi 130.000 anni. La faccio breve, se la proiettiamo sul muro in un metro, ogni centimetro sono 1.000 anni. Gli ultimi 2.000 anni occupano 2 centimetri. Il capitalismo dal 500 ad oggi occupa mezzo centimetro. Se la proiettiamo su una scala più lunga, la nostra specie è più antica di 1 milione di anni, ma accontentatevi di 1 milione di anni. Allora ogni millimetro diventano 1.000 anni e la storia del capitalismo è l'ultimo mezzo millimetro. La nostra specie ha vissuto benissimo senza il capitalismo, ha vissuto per milioni di anni, per millenni. E questa cosa qui, in qualche modo, fa parte della nostra storia, fa parte delle richieste di tornare a una condizione gestionale delle riserve, delle risorse, che è quella che l'uomo ha avuto per millenni. Diceva un comunista piuttosto dimenticato, ma che secondo me è il più importante del Novecento, diceva in un suo scritto, le violente scintille che scoccarono tra i reofori della nostra dialettica ci hanno preso che compagno militante comunista rivoluzionario che ha saputo dimenticare, rinnegare, strapparsi dalla mente e dal cuore la classificazione in cui lo iscrisse l'anagrafe di questa società in putrefazione e vede confonde se stesso in tutto l'arco millenario che lega l'ancestrale uomo tribale, membro della comunità, al membro della comunità futura, fraterna nell'armonia gioiosa dell'uomo sociale. Quel comunista era Amadeo Bordiga, che nel 1951, nel programma immediato della rivoluzione, un folle, uno che nel 1951 scrive il programma immediato della rivoluzione, e per noi probabilmente un folle, tra i vari punti che mette è proprio quello. Non cita Geismar, ma dice la redistribuzione sul territorio della popolazione per abolire le grandi metropoli che consumano troppo e non producono nulla, se non dal punto di vista industriale capitalistico. Dobbiamo ragionare in questi termini per capire l'importanza della guerra dei contadini, così come era stata quella dei taboriti, e non preoccuparci soltanto delle formule in cui viene espressa, no? Tutto sommato, il primo vero manuale di politica pratica lo scrive Niccolò Machiavelli più o meno negli stessi anni con il Principi. È il primo manuale che costituisce una grammatica del mantenimento e della perdita e della conquista del potere. Machiavelli è stato messo all'indice della Chiesa per anni, perché quel manuale che noi spesso, se vedete quelle collane assolutamente imbecilli, grandi cattivi della storia, ci trovate ancora Niccolò Machiavelli, no? Col Principe, in realtà aiutava a comprendere quali sono le dinamiche del potere in una società in cui il potere può essere perso, conquistato, mantenuto secondo determinate leggi. Sempre in quel periodo, forse un paio di secoli prima, un importante rappresentante del pensiero cristiano, un tedesco, guarda caso, Meister Eichhardt, diceva che questo corpo ci è dato in prestito, così come quello che ci circonda. Voi capite che dire questo corpo non è mio, quello che mi circonda non è mio, lui lo faceva da un punto di vista di affidamento alla divinità, eccetera, però aveva già in sé una prefigurazione di un mondo in cui la proprietà privata, il soggetto, l'individuo non sono più dominanti. Si appartiene a un gruppo, si appartiene a una società, si appartiene a una specie e nell'interesse di quello bisogna agire, che è proprio di nuovo la negazione del capitalismo. L'esaltazione dell'individuo, della proprietà privata, dell'appropriazione privata, dell'appropriazione dei mezzi di produzione e così via. Oppure del consumo privatissimo, in cui dobbiamo avere tutti le stesse cose per usufruirne singolarmente, nel chiuso possibilmente del nostro alloggetto, magari di nostra proprietà, ignorando esattamente tutti quelli vicino a noi che fanno le stesse cose. Se qualcuno di voi ha visto quelle immagini dei cubicoli degli alberghi giapponesi in cui si va a dormire per una notte, eccetera, può capire cosa voglio dire, no? Dove arriva la follia di questo. E quindi questa rivolta dei contadini, che qualcuno potrà vedere come una cosa arcaica, in realtà aveva cose di modernità assoluta. Ha fatto bene Daniele a sottolineare che tutto sommato era un po' come Lenin, Thomas Munzer. In cosa? Nel cogliere il momento, nel capire dalle necessità quale poteva essere il programma che serviva e l'organizzazione politica e militare che serviva per realizzare quel programma. Che poi quella rivoluzione non sia andata a buon fine, non fa parte di quella lunga trasformazione, nemmeno troppo lunga, perché vorrei dirvi, la società egizia è durata 4.000 anni, il capitalismo per adesso ha sì e no 500 anni di storia nell'Occidente. Facciamo i conti, Certo, le distruzioni di questi 500 anni in termini di guerra, in termini di ambiente, in termini di devastazione sociale sono enormi, ma rimane una storia molto breve rispetto ai tempi della specie. E all'interno di questa storia, un'altra cosa che nasce e rimane identica a se stessa è il riformismo. La guerra dei contadini parte da un signore che un bel giorno scrive: se abbiamo forche per i ladri, patiboli per i briganti, roghi per gli eretici, perché non abbiamo armi per questi maestri di perdizione, questi cardinali, questi papi, tutto questo pantano della Sodoma romana che corrompe la Chiesa di Dio? Perché non laviamo le nostre mani nel loro sangue? Non è Thomas Munzer, è Martin Lutero, che prelude ad una trasformazione della Chiesa. I contadini parlavano di proprietà privata, di terra, parlavano di cose. Quando i contadini si ribelleranno, quel signore riformista, il padre del riformismo, Martin Lutero, dal mio punto di vista, scriverà in un libello, proprio per dare addosso a Munzer, ai contadini, appoggiare i principi e i borghesi delle città che non hanno tradito. Nel mio precedente libello non ho osato condannare apertamente i contadini perché si dichiaravano disposti a ricevere un migliore insegnamento. Ma ora sono passati all'azione e aggrediscono con la forza, dimenticando le loro buone intenzioni. Saccheggiano, infuriano come cani rabbiosi. In breve, stanno compiendo l'opera del demonio e dell'arcidiavolo in persona, sottolinea Thomas Munzer, che regna Mulhausen, incitando al saccheggio, all'omicidio e allo spargimento di sangue. La sedizione non è come un semplice assassinio, ma come un grande fuoco che in fiamme distrugge un intero paese. Perciò, chiunque può, deve, in questo caso, ammazzare, strozzare, trafiggere in pubblico, in segreto, e facendolo pensare che non c'è niente di più velenoso, pericoloso e diabolico di un ribelle, proprio come se si uccidesse un cane rabbioso. Io credo che non ci sia più nemmeno un diavolo all'inferno, perché si sono tutti trasferiti nei contadini. Questa è una furia senza limiti e senza confini. Perciò trafigga, scanni, strangoli chiunque ha la possibilità di farlo. E se nel farlo tu incontrerai la morte, buon per te. Una morte più beata non la troverai mai più, poiché morirai nell'obbedienza alla parola, al comandamento di Dio, al servizio dell'amore. Ovvero, carissimi, se vi accontentate di riformare, se andiamo a dare un voticino al referendum per dire sì o no ad una legge, va tutto bene, ma non provate ad insorgere contro l'esistente, non provate a chiedere di andare al di là della proprietà privata o della proprietà dei mezzi di produzione, non chiedete di andare al di là del lavoro salariato, perché i primi nemici sarebbero i signori che volevano riformare un po'. Vi rammento un episodio. La prima guerra mondiale finisce grazie all'insorgenza dei soldati, degli operai e dei marinai tedeschi. Per questo cade il Kaiser, finisce la prima guerra mondiale. La Germania non era sconfitta all'esterno ma dall'interno. E quindi va al potere il Partito Socialdemocratico. Il ministro della difesa Noske, socialdemocratico da sempre, sarà colui che arma i Freikorps, i gruppi armati che poi diventeranno la base dei nazisti, che saranno quelli che sconfiggono l'insurrezione spartachista e ammazzano per strada Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Riformisti che avevano votato i crediti di guerra. E ancora Martin Lutero torna in pista a parlarci attraverso quelle cose. Mi fermo qui, ci sarebbero altre cose da dire. Va bene, domande, osservazioni, considerazioni, prego. Aspetta, vieni. Innanzitutto vi ringrazio per tutto, per aver esposto tutta questa parte storica che assolutamente non conoscevo. Mi rimane un po' un dubbio, perché considerare la nascita del capitalismo intorno al 500 e non considerare capitalista anche, per dire, un trafficante, un commerciante al tempo, perché non era illegale, un commerciante di schiavi nell'epoca romana. Si parla sempre di mezzi di... lo schiavo produceva, per cui mi viene quasi da paragonarlo ad una macchina. Moiso, che è quello che ha studiato di più di noi. Ecco, mi ha fregato. No, non c'è la stessa cosa, perché intanto la società mercantile capitalistica fa tutto in funzione del profitto, no? Dell'assoluto profitto, che è il profitto. Il capitale viene definito da Marx come valore in processo. Non può mai stare fermo, deve sempre aumentare. E per fare questo ha bisogno di reinvestire costantemente in maniera produttiva e proficua. L'agricoltura, il modo di produzione schiavistico, non funzionava in tale modo. Certo provocava l'arricchimento di colui che vendeva gli schiavi o di colui che li utilizzava. C'era, che però non si incrementa, non si incrementava nello stesso modo. La finalità non era la produttività riprodotta all'infinito per poter creare merce e essere venduta. Tant'è vero che lo schiavo non riceveva un salario. Uno dei drammi del capitalismo è che l'operaio riceve un salario per consumare ciò che ha prodotto. Lo schiavo consumava il minimo necessario per mantenerlo in vita, no? Però non consumava di più, non veniva invitato a consumare di più incrementando il... No, la macchina da questo punto di vista non ha nessun intervento di lavoro umano, quindi... Il commerciante di schiavi però, che può essere anche qualunque commerciante, tende ad arricchirsi, lo fa per arricchirsi. Sì, se esiste un'economia monetaria si arricchirà in moneta. Dopodiché quella moneta non deve essere per forza investita nelle società passate, basta l'accumulo, mentre invece nella nostra società deve essere reinvestita, anche i tuoi risparmi. Vedete che ormai da un po' di anni che ci dicono non tenete più i soldi in banca, investiteli, no? Perché abbiamo bisogno di investimenti sempre maggiori, se poi vanno in rovina con le rovine con le crisi tipo 2008 eccetera, non importa, però noi progressivamente, non faccio un discorso da piccolo proprietario, ma saremmo sempre più espropriati anche delle nostre decisioni economiche, perché quel capitale deve essere in movimento costante. Il commerciante di schiavi poteva raggiungere una certa cifra, ritirarsi dal mercato, andare a vivere sull'isola che vuoi tu, no? E stare lì con schiavi, schiave, ed era la sua vita, che era un po' anche la finalità poi tutto sommato degli aristocratici. Quando comincia la critica borghese all'economia aristocratica, che non ha più gli schiavi ma aveva i servi della gleba e i signori feudatari, insomma, in qualche modo sfruttavano i contadini che poi si ribellavano, come ci ha raccontato prima Daniele, la critica dei borghesi, ma voi siete improduttivi. La grande vergogna dell'aristocrazia per la borghesia era di essere improduttiva, non di essersi arricchita. Stiamo attenti, perché una cosa che non ho detto prima, ho saltato, salto di palo in frasca, poi torno sull'argomento. Per esempio, quando parliamo di fascismo, no? Il fascismo è violenza, il fascismo è razzismo. No, la violenza preesiste al fascismo da millenni, il razzismo esiste, a prescindere dal fascismo, da secoli. Quello che il fascismo ha inventato è l'integrazione totale del cittadino nello Stato che deve provvedere a lui, cioè è la piena realizzazione del riformismo. Ed è completamente un'altra cosa. Ed è quello che quelli che fanno l'antifascismo istituzionale non vogliono mai sentirsi dire, perché il fascismo è violenza, il fascismo è razzismo. No, il fascismo è l'integrazione totale dell'interesse nel cittadino in quelli del capitale attraverso lo Stato. Sono due... No, dicevo, il fascismo è l'integrazione totale del cittadino e anche del lavoratore salariato, che è quello che ci interessa di più, nell'interesse dello Stato e quindi del capitale. Capito? Quindi, rispetto a un'analisi semplicistica in cui c'è la violenza, allora c'è il fascismo. No, erano anche violenti i nostri antenati. Adesso anche quelli che dicono ah, la violenza no, tutto, ma è la nostra specie. Anche in quell'epoca di cui parlavo prima, per sopravvivere, insomma, come minimo ha dovuto avere pratiche violente. Certo che Marx parla di una futura uscita dell'uomo dalla preistoria, eccetera, eccetera. Però non confondiamo la violenza di un cacciatore-raccoglitore con quella organizzata dello stato tecnologico di oggi. Non confondiamo nemmeno la violenza del cavaliere medievale, che già era un bel soggetto, con colui che maneggia le bombe atomiche. Perché talvolta si dice, ma c'è sempre stata la guerra. Sì, peccato che quelle del capitale rischino di essere quelle che pongono definitivamente fine all'umanità. Poteva esserci la guerra di Troia con la distruzione di Troia e tutto il resto del mondo vivere tranquillamente, nessuno se ne accorgeva. La Seconda Guerra Mondiale ha già portato centinaia di milioni di morti, ancora adesso nessuno storico è riuscito a capire quanti milioni di morti ci sono stati in giro per tutto il mondo. La futura guerra, che si avanza sempre più a grandi passi, potrebbe portare a distruzione totale sul nostro pianeta. Speriamo di no, speriamo che ci siano reazioni. Vado in giro da anni a parlare di queste cose proprio perché ci sia un'opposizione più concreta alla guerra. Però queste sono le cose su cui dobbiamo pensare. Anche, tutto sommato, l'aristocratico, una volta che aveva i suoi schiavi, se vuoi, che lavoravano per lui, gli davano una buona quota parte del prodotto, ma un po' la vendeva, stava benissimo. Oggi non c'è più questa cosa qui. Assolutamente, la terra deve produrre al di là di ogni limite, non mi bastano più gli uomini, ci metto le macchine, ci metto i concimi, creo la desertificazione di territori interi, perché in quel breve periodo deve produrre al massimo. Non era la mentalità di un'economia schiavile e nemmeno di quel tipo di commerciante. Il commerciante, c'era ad Atene il commerciante, no? Poteva commerciare delle cose, eccetera. Con l'espansione coloniale dell'Occidente abbiamo messo un meccanismo in moto, un meccanismo in cui merci di tutto il mondo devono circolare a vantaggio di pochi, sfruttando il lavoro di molti e cambiando addirittura le norme esistenziali di intere società. Gli schiavi, l'economia schiavistica, non poteva, ho detto prima, gli Egizi sono durati 4.000 anni, era una società schiavistica. È finita con l'avvento di altre cose, eccetera, eccetera, ma non certo, non si è grandemente evoluta, mentre invece noi poi abbiamo un altro mito, e scusatemi se mi dilungo ancora per un attimo, il progresso. E il progresso nasconde questa cosa per cui adesso vediamo una medicina nuova, vediamo il telefonino nuovo, l'automobile nuova, adesso vediamo l'automobile elettrica, adesso vediamo il camion elettrico, adesso vediamo la bomba atomica. È tutto progresso, no? Nelle società antiche questa necessità qui non c'era, si poteva vivere secondo determinate regole per secoli, per millenni. Quindi in qualche modo anche una visione come quella che io mi sono permesso di prospettarvi prima è un po' più simile a quella delle società antiche. Adesso non è che tutti i momenti dobbiamo rivoluzionare completamente il mondo per guadagnare cose in più. Abbiamo davvero bisogno di queste cose in più? O avremmo bisogno di una più equa ripartizione dei beni, del benessere, eccetera? E magari quello che richiederà forse di fermarci un attimo e pensare cosa ci serve e cosa non serve. Quali sono le... Sempre in quel programma del 51 il tal Bordiga diceva abolire la produzione di merci inutili. Cioè, ci rendiamo conto che se noi oggi togliessimo di torno le merci inutili che ci soffocano, spesso ci dice c'è il problema dei rifiuti, siamo soffocati dai rifiuti. No, noi siamo soffocati dalle merci, che non sappiamo più dove mettere, diventano rifiuti. E poi il mercato non si può fermare. Continuamente bisogna produrre nuove merci. Spero di di aver risposto a me in parte. Il vulcano della tradizione. Dobbiamo fare una domanda, ma potremmo farla a voce alta. Dai. Ma c'è un aspetto che sicuramente cioè c'è una continuità, nel senso che una continuità che si può rintracciare nello stesso storia del cristianesimo, diciamo così. Qualcuno, forse la Briola, mi ha parlato della lunga catena di sollevazioni cristiane che vanno dai primi secoli del cristianesimo fino al 500 e poi dopo nel 600 in Inghilterra, in Francia, nel 700 ancora in Francia. C'è veramente un movimento carsico in cui in ogni secolo esplodono delle sollevazioni contadine, diciamo, o ereticali, quindi comunque che hanno le stesse basi, le stesse ragioni, proprio per quello che dicevamo prima, anche rispetto a quello che si diceva adesso di là che si parli di capitalismo, possiamo poi chiamarlo come vogliamo, però secondo me la questione era proprio anche oltre che quella economica che diceva Sandro, della pervasività del controllo, nel senso che nel Cinquecento nasce proprio cioè lo Stato-nazione con l'economia capitalista ha bisogno di un controllo capillare, totale, non solo nella produzione ma anche nei consumi, come diceva, e nella in qualche modo nel formare, nel dare una forma alla vita sociale che prima non c'era, cioè gli antichi romani, per esempio, appunto studiando le cose che diciamo nella nostra valle, ma un po' in generale, si accontentavano di controllare il fondo valle, di avere le loro strade per passare, per portare gli eserciti, le merci. Se poi la gente si faceva i fatti propri, aveva le proprie religioni, aveva le proprie forme di autogoverno, non gliene fregava niente. L'importante era avere schiavi ogni tanto nei momenti di guerra e vie libere. Però la gente, bene o male, per millenni si è fatta i fatti propri. È soltanto con la nascita dello Stato moderno che tutto questo deve essere disciplinato a tutti i livelli, nei saperi, nelle forme di vita, nell'economia e via dicendo. Sulla questione, per tornare a quello che si chiedeva, è un po' difficile, secondo me, anche perché sono tutte fonti che sono state comunque cancellate, cioè quelle adesso nella guerra dei contadini qualcosa è rimasto, degli articoli, però ricostruire i contatti, le eredità reali, concrete tra i vari movimenti è un po' difficile, anche se ci sono delle tracce, ad esempio pensiamo a questo esempio sui Taboriti, quindi nel 400 in Boemia noi sappiamo che i Valdesi nelle Alpi avevano legami con loro, non solo facevano raccolte soldi come potrebbe essere i benefit che facciamo oggi, raccoglievano soldi nelle Alpi da mandare ai Taboriti, facevano dei convegni insieme, quindi c'erano dei legami geografici, diciamo, e anche storici nel tempo, appunto quello che dicevo prima di Munzer che va in Boemia, incontra vecchi predicatori taboriti che poi arriveranno quando c'è l'insurrezione, andranno in Germania. I Valdesi saranno presenti nelle insurrezioni poi in Francia nel 600 e nel 700, cioè sicuramente ci sono dei legami, non so quanto, non lo so perché è anche difficile appunto avere delle fonti precise, però ci sono dei legami, dei collegamenti tra generazioni, ci sono posti che ritornano sempre, delle case sicure, dei villaggi sicuri in cui gli eretici si rifugiavano, quindi sicuramente c'è una continuità, è anche abbastanza intuitivo, per quanto non abbiamo delle fonti precise perché poi sono stati bruciati, sterminati e via dicendo, però sicuramente c'è questo passaggio di testimoni, c'è stato, insomma. E su quanto hanno lasciato, Io credo che appunto c'è stata una cesura grossa nel 700 e nell'800 con quella storia lì, che è stata appunto bollata come qualcosa di superstizioni medievali o così, cose che il nuovo movimento, dalla rivoluzione francese in poi soprattutto, quei movimenti sono stati abbastanza squalificati in questi termini. C'è stata una ripresa poi nell'800, una cosa significativa ad esempio che nella DDR, nella Germania dell'Est, cioè, era stato fatto un monumento a Thomas Münzer, a Frankenhausen credo, dove c'è stata l'ultima battaglia, comunque in Turingia, era anche sulle monete, sulle banconote della DDR c'era il ritratto di Thomas Münzer, e nel monumento c'è scritto come, adesso non mi ricordo parole precise, però come il primo eroe della rivoluzione del proletariato internazionale. Quando è caduta la DDR non se la sono sentita di abbattere il monumento, i tedeschi della Germania unificata non se la sono sentita di abbattere il monumento a Thomas Münzer, hanno cambiato la targa dicendo a Thomas Münzer l'eroe della rivoluzione germanica o tedesco, primo eroe nazionale tedesco. Cioè ognuno lo usa un po', usa queste storie un po' per un po' come gli pare, insomma, questo è un po' il destino dei movimenti, chiaramente. Sulla base di quello che dicevo prima, credo che l'eredità che rimane è sempre quella delle lotte. C'è la lotta dei contadini. Successivamente, all'avvio del primo utilizzo delle macchine in campagna, ci saranno i luddisti che vengono dalle campagne ma distruggono le macchine che portano via lavoro, eccetera, no? E successivamente cominceremo ad avere i lavoratori di fabbrica che si ribellano. Come? I tessitori della Slesia, ma arriviamo pure fino a Mirafiori degli anni 60. Però vi invito a fare un ragionamento, perché sennò poi dice, però sono scomparse queste cose. Da un lato è vero, c'è un'opera costante non tanto di rimozione, ma di modificazione. No? Si dice, i contadini non hanno lottato perché volevano abolire la proprietà privata, eccetera. No, primo eroe nazionale tedesco. No? E così oggi magari i caduti della resistenza eccetera volevano proprio questa costituzione qui, magari volevano già proprio presidente Mattarella, no? Sappiamo che non è vero, magari volevano anche altre cose. E possiamo anche immaginare che le lotte che alcuni di noi hanno avuto la fortuna di conoscere negli anni 60 e 70, le grandi lotte di fabbrica, non a caso io vengo da Torino, parlavo di Mirafiori, ma qui è la Pirelli eccetera, sono state importanti, ma non ci saranno più qui da noi. Non ci saranno più per due motivi: deindustrializzazione e il fatto che, non essendo più l'Occidente il centro del mondo, gli operai non potranno più rivendicare quelle stesse cose che negli anni 60 e 70 hanno potuto ottenere, perché i grandi aumenti di stipendio degli operai degli anni, delle lotte a cavallo tra anni 60 e 70, quando lo stipendio di un operaio Fiat passò da 60.000 lire a 110.000 lire con lo sciopero lungo delle porte di Mirafiori, era possibile perché, vabbè, pur che non rompano più, diamogli qualcosa in più. E intanto la Fiat in Argentina, la Fiat in Polonia, la Fiat in Spagna sfruttava di più quegli operai o traeva più plusvalore degli operai polacchi o da Togliatti grado da altri posti. Oggi questa roba qui non sarebbe più possibile perché l'Occidente non è più il centro del mondo. Forse magari lo potrà fare la Cina. Ma perché dico questo? Perché a noi sembra che delle cose non abbiano continuità. La continuità c'è la lotta, c'è la necessità di andare oltre un certo sistema sociale. Le forme, ovvero i programmi, per forza di cose devono cambiare. Noi negli anni 60 e 70 non abbiamo mai lottato per l'ambiente come occorre lottare adesso. Eravamo abituati ad andare in automobile, eccetera, non contestavamo queste cose, ne contestavamo altre, erano già lotte molto avanzate, ma non erano queste cose qui. E le donne degli anni 70 che hanno fatto il girotondo in piazza del Duomo fino a venire scomunicate dal vescovo, non pensavano mica a Me Too di Hollywood però, Capite cosa voglio dire? Che ci sono sempre dei cambiamenti delle cose, noi ricordiamo perché sono avvenute oggettivamente delle cose, cerchiamo di capire perché sono avvenute e altre per poter cogliere quelle che verranno nuove, senza per forza, non dobbiamo immaginarci che ci sarà di nuovo la rivolta dei contadini, non dobbiamo immaginarci che ci saranno di nuovo gli operai di Mirafiori che bloccano Mirafiori, che ormai ha 5.000 dipendenti in tutto a fronte di un tempo che ne aveva quasi 100.000, però ci saranno altre cose, quelle ci manifesteranno la continuità tra i contadini tedeschi e noi e il futuro. No, no, ha capito, lei mi ha detto, per, secondo me, quali sono le tutti i movimenti che già vediamo, cioè un movimento come quello Notav, che certo non sarà quello che trascinerà la rivoluzione futura, però è qualcosa che negli anni 60-70 non si poteva immaginare. È un movimento trasversale a un'intera società che coinvolge giovani, anziani, questa è la cosa, no? Gente dei paesi, gente della valle, gente ingegneri, amanti della natura, gente che semplicemente non vuole avere il controllo poliziesco tutti i giorni sotto casa, in casa, possibilmente in cucina all'alba, è una cosa nuova, no? E potremmo vederne altre, certo da altre parti del mondo verranno anche altre novità. Quello che dico è che dobbiamo essere attenti a cogliere la novità che si presenta e non pensare che si ripresenterà quella stessa cosa. No? Prima Daniele diceva, no? È facile vedere un parallelo tra Thomas Münzer e Lenin, sono due personaggi lontanissimi, Thomas Münzer i contadini tedeschi, Lenin il partito bolscevico, sono due eretici. Münzer rompe con la Chiesa e con Lutero, Lenin rompe con la Seconda Internazionale e l'ortodossia socialista e diventa eretico in quello che dice. No? Non seguire più il corso dello sviluppo del capitalismo che veniva invece predicato da quelli che volevano essere gli ortodossi del suo stesso partito. Plekhanov diceva aspettiamo, eccetera. E quindi lui ha saputo vedere delle novità importanti. Speriamo di riuscire a vederle anche noi. Poi la... Io volevo farti una domanda su questa... volevo fare una domanda su questa idea che il capitalismo sia appunto un sistema recente e un frammento nella storia dell'umanità, che mi sembra... un'idea tua che condivido, che però è totalmente invisibile rispetto anche a molte persone di sinistra, perché c'è un'associazione ormai incardinata tra il capitalismo come sistema migliore che ha portato in realtà al progresso, all'accelerazione tecnologica e a un aumento del benessere. Questa è chiaramente una prospettiva solo occidentale, eurocentrica, diciamo, e quindi in realtà il problema più che sul sfruttamento, diciamo, produttivo, anche rispetto alla domanda di prima, è sullo sfruttamento del consumo, che assume una dimensione in realtà di quasi dipendenza. Cioè il problema, l'Occidente è ancora in grado di fare una lotta anticapitalista di base essendo un po' drogato dal consumo e della tecnologia, e questa accelerazione tecnologica, stavo dicendo prima, le prospettive dell'eredità di lotta per me erano un po' i movimenti hacker, cioè di scollare l'innovazione tecnologica appunto dal controllo del capitale, cosa che al momento mi sembrerebbe di dire stiamo perdendo, perché invece le big tech e appunto le nuove tecnologie sono sempre più nelle mani di meno persone. Il capitale, più che il capitalismo, non è creativo, non è vero che è creativo, è abilissimo nello sfruttare le situazioni, cosa che la sinistra, gli antagonisti, a differenza di Lenin, che fu abilissimo a sfruttare la situazione, non sono mai capaci di fare, all'interno di una società in cui domina il momento. Io prima mi sono permesso di fare quella divagazione un po' strana, 100.000 anni, 1.000.000 di anni, 500 anni, per dire che in quei termini bisogna ragionare, perché noi viviamo in una società dove è l'attimo che conta, no? Con quella macchinetta infernale, il telefono, cosa stai facendo? Cosa fai domani? Qual è il tuo programma per domani? I bambini li mandiamo a scuola, però poi devono andare a scuola di danza, devono andare a nuoto, devono andare a calcio, tutto il tempo deve essere pieno. C'è sempre qualcosa da fare, ovvero qualcosa da consumare. Ecco, la rottura con questo tipo di organizzazione del tempo, del pensiero, secondo me diventa, e per questo prima ho detto, beh, forse noi torniamo un po' a essere le società antiche, ma non per voler essere, perché poi se no i capitalisti ci dicono, ma voi siete retrogradi, no? La grande accusa in Notau qual è? Di essere un movimento retrogrado, primitivista, di dire delle cose. Ma non è vero, no? Sappiamo che se vogliamo salvare l'ambiente dobbiamo fare altre cose, non possiamo mica affidarci. E quindi sulla scommessa se l'Occidente possa, non so, questo non lo so, però così come parliamo di mondo, scusate, di epoche lunghe, parliamo di mondo. Ecco, perché una volta l'Occidente era un po' il centro del mondo per potere, oggi non l'è più. Cioè... le trattative di pace, che riuscì, una volta si faceva una Ginevra nel cuore dell'Europa, adesso si fanno Islamabad, capite che c'è qualcosa che è cambiato nei rapporti di forza a livello mondiale. Come trattative per l'Ucraina e la Russia, è intervenuto addirittura Erdogan della Turchia, ma con questo non voglio denigrare né il turco né il pakistano, e dire è chiaro anche da fatti come questi che non siamo più al centro del mondo, e forse nemmeno gli Stati Uniti. E quindi delle cose succederanno, forse succederanno proprio perché non siamo più il centro del mondo. Può darsi anche quello. Altre domande? Altri interventi? Va bene. Ma io, se mi ha fatto venire in mente delle cose, l'ultima domanda, l'ultimo intervento di Sandro, che secondo me... sicuramente succederanno delle cose, succederanno da altre parti del mondo che sono molto più determinanti e centrali di quanto lo siamo stati noi qua in Europa, diciamo in Occidente, perché è un po' una caratteristica, cioè prima si parlava delle dinamiche di guerra, di come le vicende sia dei taboriti e poi della guerra dei contadini, un elemento che prima mi sembra che avevo accennato però poi non l'abbiamo sviluppato, un elemento importante è proprio questo cambiamento nelle dinamiche della guerra, cioè prima la guerra era un affare dei cavalieri, di fatto, che erano dei corpi, dei pezzi di società che venivano cresciuti con quella tradizione, diciamo, quella disciplina, che di fatto combattevano tra di loro. Il resto della società non era interessata per la gran parte dai combattimenti. Era una sorta di rituale, di gioco con cui si risolvevano i conflitti in quel modo. Nel 400 e nel 500, oltre all'invenzione delle armi da fuoco, si costituiscono i primi eserciti di fanteria. E questo è vero, vengono mandati al massacro centinaia, migliaia di proletari, però allo stesso tempo questo mette in moto delle energie, i processi rivoluzionari sono questa cosa qua, cioè vengono messe in moto delle energie di cui il capitale nascente in quel caso aveva bisogno, però allo stesso tempo gli creava dei problemi. Nelle repressioni del movimento dei contadini ci sono diversi dispacci dei principi, di sudditi dei principi che dicono non possiamo fidarci dei lanzichenecchi, perché questi sono contadini che sono stati mandati ai fronti, tornano disoccupati, incazzati neri perché gli era stato promesso un bottino che non c'è, hanno imparato l'uso delle armi, se li mandiamo lì questi fraternizzano con i loro parenti che sono al villaggio. Quindi il capitalismo mette sempre in moto delle energie, è costretto a farlo per sfruttarle, però che creano delle contraddizioni, noi magari non sappiamo ancora quali saranno queste, però vediamo nell'Iran di oggi, chissà che cosa metterà in moto questa cosa qua, quello che sta succedendo. Sicuramente l'intervento israeliano-statunitense non è che è quello a suscitare delle prospettive di liberazione, anzi è il contrario. Però tutto il disastro che si sta creando all'interno dell'Iran, all'interno degli Stati Uniti, mette in moto delle energie su cui, in particolare in Iran, si diceva prima, ci sono anche degli orizzonti temporali molto diversi da quelli che abbiamo noi. Lì veramente c'è una civiltà millenaria. Non è un caso che i movimenti rivoluzionari più interessanti negli ultimi decenni, sia in America Latina sia nel Medio Oriente, pensiamo al movimento curdo, lì c'è chiaramente un rifarsi a un'eredità di millenni, cioè come la civiltà, loro fanno proprio un discorso di civiltà millenaria, di come la civiltà statale dai Sumeri è nata nel Medio Oriente, da lì nascerà una messa in discussione di questa civiltà, verranno create le basi per abbattere quel tipo di civiltà, costruirne un altro. Cioè, c'è proprio un orizzonte temporale di ragionamento a cui noi non siamo abituati e che non abbiamo proprio idea. Siamo abituati a pensare un po' come pensavamo per i contadini, anche lì ritorno al discorso indios esterni, indios interni, che erano forze arcaiche, che erano dei barbari, che non avevano cultura, perché siamo abituati che la politica è cosa nostra in qualche modo, dei greci e dei romani. Lì ci sono civiltà che hanno, insomma, più antiche di millenni, che hanno dei bagagli, dei portati, dei saperi, e si stanno confrontando con queste cose, e sicuramente nasceranno delle cose nuove. Del resto la rivoluzione è un po' questo, non sono i piani che ci facciamo noi qua a tavolino. Secondo me Ernesto voleva dire qualcosa. Mi è parso di... No. No, un pensiero che forse però devia totalmente. Cioè, mi sembra interessante la questione del testo, cioè del testo religioso. No, arriva il testo religioso nei 12 articoli di Memmingen, no? Ci sono vari riferimenti al testo, ma quello che leggendoli allora mi aveva colpito era il fatto che tendenzialmente viravano su tutto il resto, cioè parlavano dell'uomo. Quindi trovi legittimità nella parola di Dio, ma secondo me quello iato gigantesco di cui parlavi all'inizio tra la società cinquecentesca e la percezione che possiamo averne oggi, secondo me non è neanche così grosso. Perché? Perché la religione sì c'è, però in quei 12 articoli, da quello che ricordo io, è quasi semplicemente un contorno per creare legittimità. Forse mi sbaglio, questa è un'idea mia che mi sono fatto. Teghirasun. E io chiuderei segnalando, no, se si vuole andare avanti fino alle 4 di mattina a me va benissimo, no, chiuderei segnalando la, si spera, prossima uscita di un altro libro di Maurice Pianzola in argomento, quello che lui dedicò al rapporto tra una serie di illustri artisti del Cinquecento tedesco e il movimento di lotta del tempo, che è in traduzione, si sta verificando la traduzione, e sarà una delle prossime uscite di Tabor. Se vuoi dire qualcosa al riguardo, perché è un'altra ricerca. Beh, dovete considerare che Pianzola, oltre che storico, era conservatore presso il Museo dell'Arte di Ginevra, quindi aveva una grandissima competenza di storia dell'arte, e per primo riuscì a mettere in luce come diversi tra i principali artisti del tempo furono coinvolti in maniera più o meno diretta nel movimento di lotta di allora. Ecco. Se vuoi dire qualcosa, se no, comunque resti per detto che si sta lavorando su quest'altro testo, e che anch'esso rende conto della complessità e della profondità del movimento di lotta di allora, perché coinvolse tutta la società, dagli strati più alti, gli intellettuali più raffinati, alle genti di campagna, al proletariato urbano, alla piccola borghesia. Insomma, fu uno scossone tremendo rispetto al quale era difficile rimanere neutrali e non essere presi dentro. Sì, no, su questo non dico niente, un po' per scaramanzia, l'hai detto tu, e lui dice si sta riguardando, la sta riguardando lui la traduzione, quindi se non uscirà dico pubblicamente che è colpa sua. No, a parte gli scherzi, no, sull'ultimo intervento, siccome è una questione interessante, sarebbe molto lunga da approfondire, però c'è questa questione qua anche nelle letture che sono state fatte successivamente di Munzer, quindi sia dei testi di Munzer in generale del movimento, una lettura un po' riduttiva. Quello che dicevi è vero, nel senso che viene utilizzata la Bibbia in tutti i 12 articoli, cioè a lato, proprio graficamente c'è una sorta di nota a margine, proprio fisicamente a margine, sui lati, in cui vengono riportati i passi della Bibbia che giustificano, che legittimano le rivendicazioni, quindi c'è tutto un lavoro di quel tipo. Però nelle letture, soprattutto sulla scia di Engels, è stata fatta una rilettura della religiosità della guerra dei contadini, come se la religione, come se i contadini, come se Munzer, quindi i teorici, diciamo, del movimento dei contadini, semplicemente avessero utilizzato la Bibbia come giustificazione delle loro rivendicazioni, che in parte è vero, però questo risente un po' del materialismo engelsiano, marxiano, per cui no, quello era solo una sovrastruttura, e loro strumentalmente hanno utilizzato la Bibbia perché era quello che c'era, hanno messo quello perché strumentalmente, tatticamente gli conveniva. Che, se vogliamo, in un certo senso è vero, però se si leggono i testi di Munzer, invece, cioè, la religione era veramente qualcosa di profondo, di radicato. L'idea, cioè, adesso non entriamo in queste cose più teologiche, però una cosa anche molto attuale di Munzer è il discorso che lui fa sulla salvezza, sulla fede, cioè c'è proprio una lettura anche del processo rivoluzionario, cioè diciamo della salvezza, lui lo intende in maniera sia sociale, chiaramente sociale, però lui rompe con la cosa che la fede sia una questione di procedure, di istituzioni, di rituali, che sia qualcosa di profondamente intimo, spirituale, diremmo oggi, qualcosa di questo tipo, appunto rifacendosi alla mistica. E questo ci dà un'idea anche di un processo rivoluzionario che contemporaneamente, inscindibilmente sociale e individuale. Cioè lui dice, c'è proprio un percorso di liberazione individuale, cioè quello che lui chiama il percorso di salvezza, della croce, della sofferenza di Cristo, bisogna vivere quella cosa. Lui dice, i dottori delle scritture che ci hanno rubato le scritture ne parlano senza sapere che cos'è la vera croce, la vera sofferenza, sono i poveri invece che conoscono questa cosa e possono liberarsi liberandosi dal timore degli uomini, imparando il timore di Dio, che vuol dire dimenticarsi del timore degli uomini. Quindi c'è una profondità che non è solo un uso strumentale della scrittura, poi lo si può intendere, insomma, un po' in entrambi i maniere, perché c'è anche quello sicuramente, però è un argomento di dibattito anche tra gli storici, questa cosa qua è interessante, insomma. Mandateci via se non la finiamo più. Però dico ancora una cosa, che questa cosa individuale a cui faceva si manifesta in Marx e in Bordiga attraverso quello che loro chiamano il demone del comunismo, quella forza che conquista il militante, può conquistare le masse, diventa una forza individuale, diventa una passione, diventa un sentimento che guida al di là della ragione stessa. Esatto, esatto. Esatto. Esatto. C'è qualcosa di più forte che si manifesta nell'individuo, nelle masse, e difatti fatto proprio come parallelo con quello che diceva Munzer. È qualcosa che invece la ragione borghese, lo studio, non accetta, no? Bisogna avere il programma, bisogna fare i punti, bisogna mettersi d'accordo, bisogna è qualcosa che invece secondo me ancora adesso è difficilmente compreso, è difficilmente trattato, ed è qualcosa a cui, quando parliamo di immaginario, per esempio, alcune immagini anche cinematografiche ci dicono più cose di quanto possano dirci mille parole, no? Fa tutto parte di questa, perché siamo, insomma, siamo una specie che ha una sua storia, siamo anche piuttosto complicati poi nei nostri comportamenti. Va bene, aspetta, c'è ancora Ernesto. Vieni. No, perché allora prima mi è venuto in mente, proprio adesso, sulla questione dell'ascito, no? Perché mi è sembrato interessante che la tua domanda era rispetto a che cosa ha lasciato, e la tua risposta, quindi da qualcosa di concreto, e la tua risposta è stata la lotta, e la lotta è qualcosa di astratto. Allora la continuità la creiamo? Allora Engels e Marx, dicendo che trovano legittimità nelle religioni, in un certo senso forse non ci prendono in pieno, forse devono aggiustare il tiro, ma stanno creando continuità? Che la lotta sia astratta, perché la lotta, ti assicuro, è molto concreta. Quando si manifesta in maniera molto concreta. Noi usiamo il termine lotta per dire quelle lotte che ci sono state, che ci sono e che ci saranno, ma se io penso alla lotta... Penso a Genova 2001 con i Black Bloc che sfasciano tutto, penso alle lotte in Valsusa, penso ai soldati che lasciano il fronte, nelle guerre, e tornano a casa, nella prima guerra mondiale, nella seconda, nella guerra in Vietnam, addirittura nell'esercito di Munzer c'erano i lanzichenecchi che avevano disertato perché erano stufi di... Quelle sono le lotte concrete. L'attività di tutto il filo conduttore che lega per forza anche a questo lega con protesti che si evita nel concreto, però la tua risposta alla lotta secondo me vale per essere giudizio, però quello che è soprattutto interessante è il filo conduttore è qualcosa di è il demone. Grazie a tutti, alla prossima.